America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The Federal Reserve found that all but two of the 33 biggest US financial institutions passed these so-called stress tests. Beh, qualche giorno fa, forse una decina di giorni fa, abbiamo sentito i risultati degli stress test sulle banche qui in America e devo dire sono stati dei risultati nell'insieme piuttosto soddisfacenti, con l'eccezione di due banche europee, perché Deutsche Bank e Banco Santander sono state tenute sotto osservazione. Come dire, il loro rapporto capitale asset non era abbastanza elevato da garantire, diciamo, quei margini di sicurezza che le autorità americane si aspettano dalle loro istituzioni finanziarie. C'era, devo dire, anche una banca americana, Morgan Stanley, che è stata rimandata. Per il resto, sulle 33 istituzioni, 31 sono passate senza troppi problemi. E la cosa mi ha colpito allora e mi colpisce oggi perché noi invece ci rendiamo conto che il nostro sistema in particolare, ma quello europeo più in generale, continua a soffrire. Ci sono dei problemi. Vi cito soltanto il Fondo Monetario Internazionale, che il 30 di giugno ha detto che Deutsche Bank è la banca più a rischio al mondo. Devo dire, una dichiarazione di questo genere in arrivo dal Fondo Monetario Internazionale fa tremare i polsi, anche perché è una banca che ha attività di bilancio totali per 1.600 miliardi di euro, quindi enorme. Soltanto in America ce ne sono circa 220 miliardi di attività patrimoniale. Banco Santander ha invece tentato la grande espansione americana, ha acquistato delle istituzioni locali, ha messo insieme una rete di 650 filiali, pensate, qui in America, e anche loro forse hanno fatto il passo più lungo della gamba. Allora io vorrei parlare un po' di un confronto tra istituzioni bancarie americane, istituzioni bancarie europee e italiane, con una persona, che se ne intende, perché era qui in America proprio per partecipare a dei seminari. C'è stato un seminario organizzato dalla Bretton Woods Society a Washington e poi la Fed ha organizzato un altro incontro a porte chiuse e hanno invitato Carlotta De Franceschi a partecipare. Carlotta De Franceschi, che fino a qualche giorno fa era consigliere delegato per incrementi di capitale di Veneto Banca, ma che ha un passato, di analisi bancarie piuttosto consolidato, perché si è occupata del tema lavorando a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Matteo Renzi. E ci sono cose che preoccupano oggi, perché il 29 luglio avremo il nuovo stress test, questa volta della FEBAF, quindi dell'autorità bancaria europea, e c'è preoccupazione. Come andrà a finire? Buongiorno Carlotta, lo chiedo a lei come andrà a finire. Sì, preferisco non fare pronostici. Quello che mi preme dire è che gli stress test sono qualcosa di essenziale per salvaguardare il sistema finanziario. Tuttavia, cambiare spesso i criteri con cui si fanno gli stress test è qualcosa che crea confusione negli investitori. La confusione crea tensione sui mercati e questa tensione si riflette sulla fiducia dei depositanti e quindi sulla liquidità delle banche. Noi abbiamo visto che le banche italiane hanno subito una grande tensione da dicembre a maggio e poi di nuovo a giugno con la Brexit. Una cattiva gestione di questo momento così delicato potrebbe addirittura rappresentare la più grande sfida per l'impianto europeo, più ancora della Brexit, e potrebbe rappresentare il make or break, come direste qui in America, per l'impianto della Banking Union. Cioè, se il 29 luglio, per via di certi cambiamenti di regole, ci saranno delle notizie inaspettate che peggiorano ulteriormente il quadro, allora forse c'è da preoccuparsi seriamente. Questo che sta dicendo? Sì. Esattamente. Ecco. Ma perché cambiano queste regole? E perché non facciamo qualche cosa noi per evitare che queste regole cambino? Allora, innanzitutto c'è da dire che in Europa ci sono due autorità che esercitano questi stress test, a differenza che negli Stati Uniti. Quindi noi abbiamo la European Banking Authority, l'EBA, e anche la BCE. Secondo, l'unione bancaria è qualcosa di molto nuovo in Europa, infatti non è ancora completata, quindi si progredisce, diciamo, per tentativi. Esattamente. Si vede come si mettono le gattentoni, più che tentativi. Esattamente. Ecco, però nel frattempo gli azionisti pagano, il sistema soffre, i depositanti si preoccupano. Ecco, qual è il problema cardine del sistema bancario italiano? Sì, il problema cardine del sistema bancario italiano è un problema di redditività, quindi non danno agli investitori di fatto un ritorno, e questo succede per due motivi. Uno, perché in generale dal 2008 in poi, con le nuove regole internazionali, è diventato estremamente più costoso fare banca, e secondo perché a seguito della crisi le banche italiane hanno accumulato uno stock di crediti in sofferenza molto superiore a quello delle altre economie. Ora, bisogna anche sapere che ci sono stati degli interventi pubblici in tutti gli altri paesi, di fatto tranne che in Italia. In Italia avrebbe potuto nel 2011 creare una bad bank, ha deciso di non farlo, e quindi adesso ci troviamo con uno stock di sofferenze che è pari praticamente al 12-13% del nostro PIL. Uno dei problemi veri è che il sistema creditizio italiano poggia per l'80% sulle banche. Non ci sono degli strumenti diversificati come ci sono in altri paesi, per cui per esempio in America è solo il 20% degli asset bancari che è immobilizzato in prestiti societari. Il resto è diversificato in altre attività e il settore privato si indebita in altro modo. Ecco, c'è qualche cosa da cambiare. Ma quando lei lavorava a Palazzo Chigi, ma non ci avete pensato di cominciare a cambiare qualche cosa di strutturale? Beh, guardi, innanzitutto la regolamentazione bancaria è qualcosa che viene decisa a livello mondiale, quindi se vogliamo non è il governo italiano che fa le regole, insomma i tavoli di Basilea 3, che sono delle regole internazionali che valgono per tutto il mondo, e secondariamente sono regole europee. In particolare direi che nel 2008 alle banche europee sono state applicate regole più stringenti rispetto a quelle americane. Secondo, la nostra economia è molto particolare perché noi abbiamo imprese piccole e una miriade di banche piccole. In America le banche regionali sono state lasciate fuori da Basilea 3. Questo cosa vuol dire? Che alle nostre banche piccole, che già hanno dei costi molto più elevati, viene anche chiesto uno sforzo particolare rispetto alle banche americane, e quindi non riescono veramente a finanziare le piccole e medie imprese. Questo è un punto. Secondo, si sta lavorando a livello europeo sulla Capital Markets Union. È chiaro che aumentare i requisiti di capitale, come è stato fatto nel 2008, senza avere un mercato dei capitali funzionante come quello americano, è come praticamente spegnere un pochino l'unico motore che sta portando l'aereo, perché di fatto il sistema americano è un aereo che può contare su due motori: le banche e il mercato dei capitali. Quello europeo sta sviluppando il mercato dei capitali, siamo molto indietro, e questo chiaramente è qualcosa che si andrà a risolvere, però si andrà a risolvere nei prossimi anni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, avevo sempre con me Carlotta De Franceschi, esperta di sistemi bancari. Allora Carlotta, una canzone che la ispira, una canzone americana, ma che magari dia anche il senso un po' di dove siamo. Sì, i Bareneck Ladies con It's All Been Done, quel che fatto è fatto. Eh beh, quel che fatto è fatto, ormai non ci resta che attendere. It's all been done, bare naked ladies. I met you before the fall of Rome, and I beg you to let me take you home. You were wrong, I was right, you said goodbye. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!